Inizia? Bene, benvenuti, buonasera a tutti. Questa in effetti è probabilmente nello sviluppo dell'anno la settimana più infelice di tutti, in cui fare lezione prenatalizia dal ponte di Sant'Ambrogio e Natale. Comunque, al di là di tutto, la registrazione per gli assenti sarà sempre disponibile sul sito. E oggi di che cosa parliamo? Siamo alla settima lezione del seminario per una genealogia del soggetto e oggi vedremo le parti centrali di questo testo che Antonio Caronia ha già commentato in una parte piuttosto significativa, che è l'archeologia del sapere di Michel Foucault. Io citerò dalla edizione Rizzoli di cui dispongo, che è quella ristampata nella Bur nel 1998. E che cosa vedremo oggi? Vorrei che rimanessero soprattutto due elementi dall'appuntamento di oggi, anzi due più uno. Due termini utilizzati da Michel Foucault che sono formazione discorsiva ed archivio, che rappresentano il cuore della lezione di oggi, e poi vorrei che rimanesse anche tutto il discorso sul metodo che viene proposto all'interno di questo libro. Come diceva già Caronia la settimana scorsa, non si tratta di un metodo rigido, sono più che altro delle indicazioni di metodo. Quello che cercherò di valorizzare soprattutto come strumento di lavoro è quello che si contiene all'interno di questo libro e che può rappresentare effettivamente una piccola, provvisoria, temporanea, parziale scatola degli attrezzi quando in un'ottica archeologica si vuole andare ad affrontare in senso foucaultiano un qualsiasi, chiamiamolo pure, problema, a definire una certa tipologia di ricerca. Quindi l'obiettivo di oggi andrà in questa direzione. Vorrei puntualizzare anche un aspetto, poiché non si danno esempi all'interno di questo testo, o meglio, gli esempi che si danno sono pochissimi. Vorrei applicare quello che viene detto, applicare nel senso di porlo sempre come interrogativo, come domanda pertinente, e non di trovare una risposta, perché la risposta sarebbe ipersofisticata, ipercomplessa, sarebbe una ricerca a sé stante. Vorrei che avessimo sempre in mente l'orizzonte dell'arte contemporanea come possibile discorso, ok, come sfondo su cui andare a innestare gli spunti che verranno dati oggi. Tra le varie selezioni possibili poteva essere un tema che accomuna i presenti, e quindi quando sarà opportuno andrò a declinare in questa direzione quello che conterremo all'interno del testo. Per esordire volevo riprendere una citazione già sentita probabilmente de Leusiana, tratta da questo librettino che è il Foucault di Deleuze, è il primo capitolo intitolato Un nuovo archivista, l'archeologia del sapere, e inizia in questa maniera: un nuovo archivista è stato nominato nella città, ma è stato veramente nominato? Non agisce forse con istruzioni proprie? Alcuni malevoli dicono che è il nuovo rappresentante di una tecnologia, di una tecnocrazia strutturale. Altri, che scambiano la loro stupidità per un moto di spirito, dicono che è un seguace di Hitler, o perlomeno che offende i diritti dell'uomo. Non gli si perdona di aver annunciato la morte dell'uomo. Altri dicono che è un simulatore, che non può basarsi su alcun testo sacro e che praticamente non cita i grandi filosofi. Altri, al contrario, dicono che qualcosa di nuovo, di profondamente nuovo, è nato in filosofia e che quest'opera ha la bellezza di ciò che rifiuta, un mattino di festa. Fotografa un po' la situazione della ricezione di un testo come l'archeologia del sapere. Appunto, un tecnologo, un tecnocrate, un seguace di Hitler che ha annunciato la morte dell'uomo, è vero? È assolutamente vero. L'ultimo paragrafo che avevamo visto la volta scorsa delle parole e le cose, che diceva l'uomo una creazione nata alla fine del 1700 e quindi sparirà e probabilmente sta sparendo ora, metà degli anni 60 quando viene scritto le parole e le cose. Una delle accuse principali tuttora mosse a Foucault e a chi si occupa di Foucault è quella di un relativismo radicale in cui tutto sarebbe concesso, okay? In cui la sua analisi così profonda, destrutturante, destabilizzante di quello che è appunto l'uomo e tutto ciò che lo circonda avrebbe come esito possibile l'anarchia, l'anarchia in qualsiasi ambito, soprattutto l'anarchia in ambito politico. Nell'ultima lezione, quella di marzo, affronteremo questi temi. Certo, è vero, Foucault come profeta della morte dell'uomo, che quindi andrebbe ad intaccare tutto il grandissimo tema dei diritti dell'uomo codificato dopo la Seconda Guerra Mondiale, è stata una delle accuse principali rivolte a Michel Foucault, e tuttora la dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948, se non mi sbaglio, è sicuramente uno dei testi sacri politici, ma quando si mettono in discussione le fondamenta di questo testo sacro, sicuramente si possono ricevere degli attacchi. Che sia un simulatore Foucault, che non cita altri filosofi, è vero, i filosofi in Foucault li troviamo tra le righe. L'archeologia del sapere è un testo pressoché privo di note, pressoché privo di nomi, quindi anche questa accusa è sicuramente vera e dobbiamo trovare nel testo quello a cui rimanda. E invece la posizione di chi aveva colto la novità radicale della posizione archeologica enunciata qui è quella che Deleuze riassume con una bella frase: quest'opera ha la bellezza di ciò che rifiuta un mattino di festa. In effetti questa è un'opera fondamentale all'interno del percorso foucaultiano. Vedremo oggi che, benché l'archeologia del sapere sia un testo, o meglio, lo si vedrà di più nel prossimo appuntamento, ma anche nell'appuntamento odierno, che benché l'archeologia del sapere sia un testo autoconcluso per certi versi, che delinea una posizione precisa, cioè parla dell'archeologia del sapere, parla del sapere e parla dell'archeologia in senso foucaultiano chiaramente, tuttavia è un testo che in un paio di punti lascia già intravedere le linee di sviluppo future che costituiranno quel periodo fondamentale nel passaggio dall'archeologia totalmente incentrata sull'analisi del sapere al momento genealogico, in cui invece Foucault introdurrà l'altro grande pilastro delle sue ricerche, che occuperà i suoi ultimi 12 anni di vita, 15 anni di vita, che è il potere. E già qua compare una prima volta in una maniera molto chiara e precisa la parola potere. Ripeto un passaggio che è l'inizio del libro dopo l'introduzione, che mi sembra Giantonio Caroni avesse letto. È un po' il presupposto che riassume tutto il libro per certi versi. Il ricorso ai concetti di discontinuità, di rottura di soglia, di limite di serie, di trasformazione, ripeto, discontinuità, rottura, soglia, limite, serie, trasformazione, pone ad ogni analisi storica non soltanto dei problemi di procedura, ma anche dei problemi teorici. E allora questo libro, nella parte che vedremo oggi, com'è strutturata? Una brevissima introduzione per verificare tutti i problemi teorici che dobbiamo andare a smantellare, tutta una serie di presupposizioni che dal punto di vista metodologico Michel Foucault rifiuta, per vedere poi invece la pars construens, cioè se il metodo, oppure se gli elementi metodologici che dobbiamo andare a smantellare sono questi, e poi li enumereremo molto brevemente all'inizio della lezione di oggi, da che cosa ripartiamo? E allora, innanzitutto bisogna compiere un lavoro negativo, liberarsi da tutto un complesso di nozioni che ciascuno a suo modo diversificano il tema della continuità. Quindi, il primo bersaglio teorico da affondare si chiama continuità. Vedremo che dispersione arriva quando è stato smantellato questo discorso sulla continuità. La continuità su cosa si basa? Allora, qua ho preso un elenco, più o meno stiamo andando da pagina 29 a pagina 36 del testo, di parole chiave che Foucault intende non utilizzare quando tratta il tema del sapere. La prima è la tradizione. La tradizione come elemento da non prendere in considerazione all'interno della propria analisi dei campi di sapere, perché la tradizione andrebbe a porre delle continuità temporali e delle derivazioni, delle genealogie, delle continuità, delle casualità, se vogliamo, totalmente inutili. Poi spiega molto brevemente, sorvolando anche abbastanza spesso, perché un po' più nel dettaglio di quanto io stasera voglio fare con voi, però in primo luogo la tradizione in quanto fattore di continuità. Il secondo punto metodologico che non si vuole prendere in considerazione è l'influenza. Cosa ha influenzato qualcos'altro? Per Michel Foucault non ci sono discorsi di influenza che nell'analisi del sapere noi dobbiamo andare a costruire. Quindi quel legame forte per cui, non lo so, Hegel ha influenzato Marx, oppure l'idealismo ha influenzato il materialismo, oppure le applicazioni dell'idealismo abbiano influenzato le applicazioni del marxismo, sarebbe un falso presupposto di metodo. Quindi tradizione ed influenza. Altre parole che non vanno evitate: sviluppo ed evoluzione. Su sviluppo ed evoluzione noi siamo all'interno di un ambito abbastanza problematico, perché sviluppo ed evoluzione le possiamo rivedere anche nella direzione di un altro termine, che è quello di progresso. Smantellare l'idea di sviluppo e di evoluzione significherebbe, in questo senso, andare incontro a un'ipotesi per cui ci sia un possibile progresso del sapere, un possibile progresso della conoscenza, per cui noi, raggiungendo un obiettivo finale, in quanto umanità, in quanto esseri umani, se vogliamo, oppure avvicinandoci in maniera asintotica verso un limite di conoscenza, concetto che peraltro ritroviamo in tutta una serie di epistemologie del 1900, per cui noi come genere umano ci stessimo avvicinando senza mai avere la possibilità di toccarlo asintoticamente verso una specie di culmine di sapere che è sempre lì, non lo raggiungeremo mai, ma sappiamo che l'accumulazione dei saperi ci sta portando verso questo bordo. Ok? Progresso in generale, per cui le condizioni di una determinata epoca, le condizioni generali del sapere di una determinata epoca debbano essere, per questa nozione, migliori di quelle presenti nell'epoca precedente. Okay? Tutto questo è un punto di metodo che qua non si intende prendere in considerazione, e quindi è un'altra maniera di concatenare il sapere che Foucault vuole andare ad eliminare. Okay? Un altro discorso, quindi tradizione, influenza, sviluppo ed evoluzione, altra parola chiave è mentalità. Per cui una determinata epoca, gli individui e collettivamente l'insieme sociale condividerebbe un certo tipo di mentalità. In che senso dobbiamo prendere in considerazione questa mentalità? Allargando un pochino il discorso foucaultiano, è un rimando dal singolo come individuo all'universale della propria epoca. Per cui noi, secondo il criterio della mentalità, saremmo l'espressione dell'epoca in cui viviamo. Detto in altre parole, che sono le parole proprie della filosofia, Foucault qui sta eliminando quella sorta di spirito del tempo, di Zeitgeist, come lo delineò perfettamente Hegel, per cui ci sarebbero delle continuità strettissime a livello di sapere in determinate epoche, che fanno sì che noi potessimo riassumere determinate epoche tramite un apparato concettuale predefinito che ce le spiega e che appunto ci restituisce quello che è lo spirito del tempo, per cui noi cerchiamo di buttare nello spirito del tempo quello che noi troviamo, anche forzatamente, cerchiamo di buttarlo, quello che noi troviamo in una determinata epoca, per cui ci sarebbe lo zeitgeist greco, quello romano, quello medievale, quello romantico, quello neoclassico, quello modernista e così via. È interessante perché questo punto elimina forse anche proprio metodologicamente ogni ipotesi di postmodernismo di Foucault, come se il postmodernismo potesse andare a significare qualcosa. E quindi quarto punto di metodo distruttivo, cioè che cosa non dobbiamo andare a fare. Il quinto punto è quello del libro. Il libro pone dei temi piuttosto concreti. Foucault si domanda che cosa rappresenta l'unità di un libro. Ok, qua ho questo, ma potremmo mettere La ricerca del tempo perduto di Proust, come pure un manuale di cucina, quello che vogliamo. Il libro ha in sé questa compiutezza e questa coerenza per cui noi possiamo prenderlo in considerazione come discorso autonomo, come discorso singolo. E poi, successivamente al libro, noi possiamo prendere in considerazione l'opera, quello che in inglese viene espresso come body of work, di un autore, per esempio, come complesso, da un punto di vista unitario. La sua risposta è no. Nel libro, nell'opera, si incrociano una serie di istanze, di vettori, di relazioni, di sistemi altri rispetto al libro, rispetto all'autore che l'ha prodotto, per cui partire dal libro come strumento di sapere autoconcluso è un errore forte. Mi viene in mente qui il Flaubert di Bouvard e Pécuchet, questi due personaggi che, impregnati di un sapere puramente libresco, interpretavano tutto il mondo alla luce di questi libri, anche se il discorso di Foucault è sicuramente più raffinato di Bouvard e Pécuchet. A maggior ragione l'opera. Andare a stringere un ambito di sapere su una figura di un autore, anche alla luce di quello che è stato detto sul libro, non ha più nessun senso. Nell'opera noi di nuovo troviamo intrecciate una serie di istanze per cui l'autorialità come criterio primigenio che spiega in maniera autoconclusiva l'opera dell'autore non ha nessun senso. Torniamo all'arte contemporanea di cui stavamo parlando prima. È come se io riducessi l'opera di un autore esclusivamente alla figura dell'autore. Quali sono tutte le istanze che io vado a trovare invece nella produzione di un autore? Sono tante. Sono istanze di sapere, sono istanze economiche, sono istanze sociali, sono istanze istituzionali, culturali. Quello che si diceva sul dispositivo, io trovo sia il detto che il non detto. La figura dell'autore è una figura marginale rispetto a quello che in sé io trovo intrecciato all'interno di un'opera. Che attenzione, non è, eliminiamo questa cosa, non è lo spirito del tempo, sarà qualcosa di molto più sofisticato che vedremo successivamente. Quindi libri e opere. Altro principio da eliminare nell'analisi del sapere, nell'archeologia meglio. Adesso parliamo pure di analisi, all'archeologia ci arriviamo dopo. Le cronologie, sesto punto. Mettere in ordine le cose dal punto di vista temporale non porta a nulla. Non porta a nulla ai fini del discorso foucaultiano. Non sto dicendo che non porta a nulla in generale. Non porta a nulla, non porta acqua a questo tipo di mulino metodologico che stiamo andando descrivendo. Quindi, anche in questo caso, qual è l'influenza di cui si risente? Sicuramente è tutto quel bersaglio polemico che la scuola francese, per esempio, delle Annales, in ambito storico, andava in quel periodo demolendo, ovvero il fatto che la storia venisse costruita come histoire bataille, come storia battaglia, per cui in determinate date si sono verificate certe cose che hanno portato certe cause, per cui in determinate altre date si sono verificate altre cose. La scuola delle Annales va poi nella direzione dell'analisi dei fenomeni di lunga durata. Chiaramente Foucault sarà vicino e lontano allo stesso tempo i fenomeni di lunga durata. Ci sarà una cosa che sarà sempre apertamente in conflitto e che Foucault dichiara in un altro passaggio: io considero la storia come un insieme di fratture, di discontinuità, di rotture, di casi. Ok? Qualsiasi ipotesi di continuità per lui nella storia non ha senso, è una questione di emergenze progressive che si sono accumulate nel tempo. Ultimo punto, dopo le cronologie, in questa parte, è quella relativa al non detto. cosa sarebbe questo non detto? Sarebbe quella specie di mondo da esplorare per cui distanze pulsionali, economiche, tutto quello che vogliamo, per cui se io fossi l'autore di un libro del genere sarei andato ad esplicitare a livello di sapere qualcosa, ok, nella mia produzione, ma in realtà questo sapere che sono andato a produrre è solamente una facciata, perché dietro ci sarebbe tantissimo d'altro che deriva da altri ambiti che non sono quelli che io ho espresso, razionalizzato in parole qui, piuttosto che in qualsiasi altro documento che sono andato a produrre. Questa analisi del non detto è un'analisi che viene esclusa. È tutto chiaro, quindi? Tradizione, influenza, sviluppo, evoluzione, mentalità, libro e opera, cronologia e non detto. Una serie di termini che non si intendono prendere in considerazione. Perché? Per andare a edificare un metodo di analisi del sapere nuovo e diverso. Questo è un libro abbastanza magmatico che però ha una sua coerenza nello sviluppo del pensiero. Io cercherò oggi, stasera, di essere il più fedele possibile a questa coerenza e di andare a enumerare i vari passaggi che vi sono presenti per mostrare come alla fine Foucault abbia dato effettivamente qui dentro una serie di spunti che effettivamente possono rivelarsi importanti ed interessanti ai fini del nostro discorso. Una parentesi, si parla del soggetto qui, sì, assolutamente si parla del soggetto e lo incontreremo un paio di volte in maniera radicale. Questo testo però ha un fascino, sia parla del tema generale del seminario per una genealogia del soggetto, ma anche a chi volesse approfondirlo, questa è una delle letture scelte come bagaglio comune, peraltro, per chi volesse approfondirlo, questo libro dà tutta una serie di spunti importanti dal punto di vista della, proprio direi, dell'utilizzo del proprio pensiero e dell'applicazione del proprio pensiero ai fini di ricerca. E quindi è quella anche la maniera in cui vorrei che venisse letto. Allora, di che cosa stiamo parlando qui? Vi leggo un paragrafo all'inizio di pagina 37. Messe da parte queste forme immediate di continuità, quindi abbiamo distrutto le continuità, che cosa troviamo? Viene a trovarsi libero tutto un campo di indagine, chiaramente. Un campo sterminato, ma definibile. È costituito, infatti, e quindi qua stiamo andando a definire di che cosa parliamo, dall'insieme di tutti gli enunciati effettivi, sia parlati che scritti, nella loro dispersione di avvenimenti e nell'istanza propria a ciascuno di loro. Quindi, un campo, un insieme, anzi, facile, di enunciati effettivi, sia parlati che scritti. Allora, stiamo delimitando bene l'ambito, a quello che diciamo, a quello che scriviamo. Gli enunciati li aveva spiegati Antonio Caronia la settimana scorsa. L'enunciato è ciò che è stato effettivamente storicamente detto. Poi però aggiunge due punti. Nella loro dispersione di avvenimenti. Quindi, avvenimento nel senso che l'enunciato è ciò che si manifesta, ciò che appare, ciò che palesa, ciò che emerge a un certo punto ed è disperso. Disperso è una parola chiave che vi troveremo dopo. Perché questa dispersione di avvenimenti è un punto metodologico fondamentale? Perché abbiamo abolito in questo momento tutte le continuità e quindi tutto quello che troviamo sono le parole e gli scritti che vagano liberi nell'aria. Ok? E che dobbiamo iniziare a riannodare in questo momento. E poi dice però, insieme, va bene, ma nell'istanza propria a ciascuno di loro. E quindi non c'è una totalità che subordina una singolarità, ma c'è una singolarità da ritrovare in una totalità e, se volete, da riannodare all'interno di una totalità. Prego. Allora, questo è un punto fondamentale, assolutamente. Lui utilizza la parola continuità in un senso molto specifico, cioè la continuità è una determinata tipologia di relazione. Quello che Foucault andrà a proporre sono tipologie di relazioni, se vogliamo, differenti, non continue. Questa è una forma approssimata di risposta. Poi andiamo a vedere quelle un po' più precise proprio nella prossima parte. Prima di occuparsi con piena certezza di una scienza o di romanzi o di discorsi politici o dell'opera di un autore oppure di un libro, il materiale che si deve trattare nella sua originaria neutralità è costituito da tutta una folla di avvenimenti nello spazio del discorso in generale. Discorso per ora usiamolo pure parlato più scritto. Teniamo pure una definizione assolutamente vaga. Si delinea in tal modo il progetto di una descrizione pura degli avvenimenti discorsivi come orizzonte per la ricerca delle unità che vi si formano. Questa descrizione si distingue facilmente dall'analisi della lingua. Il campo degli eventi discorsivi rappresenta l'insieme, sempre finito e attualmente limitato, delle sole sequenze linguistiche che siano state formulate. Quindi, le sequenze linguistiche che siano state effettivamente formulate sono gli enunciati? E poi vedremo poi dopo, gli enunciati obbediscono a una legge che Foucault chiama legge di rarità. Perché gli enunciati sono rari? Ci suona strano in un'epoca di ridondanza di comunicazione di massa. Perché sono rari questi enunciati? Perché il contraltare degli enunciati, per cui gli enunciati vengono visti come rari, sono le infinite possibilità espressive della lingua. Fermiamoci un attimo a questo punto. Quante possibilità combinatorie ci offre una lingua? Facciamo pure che siano infinite, oppure illimitato, un numero n. Invece è vero che pur in una proliferazione di cose dette e scritte, quello che noi andiamo a dire è molto più limitato rispetto a quello che la lingua ci offre. E quindi il suo punto archeologico fondamentale è comprendere perché di fronte alle n possibilità che ci dà una lingua, ciò che appare effettivamente e che costituisce il sapere è un insieme molto ridotto rispetto a questo. È chiaro questo come punto? È proprio un ribaltamento di prospettiva, cioè non considerare la sovrabbondanza, ma considerare quello che viene detto come scarsità, come appunto rarità. E questa rarità è data da fattori ben precisi. Qua nell'archeologia del sapere se ne daranno alcune giustificazioni, poi se ne daranno delle altre nei libri successivi. Continuo sempre con l'analisi di questo punto. Pagina 39. La sistematica abolizione delle unità già date permette anzitutto di restituire all'enunciato la sua singolarità di evento. Altro punto metodologico fondamentale, cioè se noi prendiamo un singolo evento, abbiamo detto occupiamoci di arte contemporanea, scegliamo un qualsiasi evento dell'arte contemporanea, ok? Un qualsiasi enunciato, meglio, dell'arte contemporanea, ok? All'interno di una continuità, di una delle qualsiasi continuità di cui abbiamo parlato prima, siamo sulla strada sbagliata. Il presupposto metodologico è isolarlo, considerarlo nella sua singolarità di evento. Cioè, in questo momento noi dovremmo lavorare come se avessimo tagliato fuori quel pezzo da tutto il contesto che gli sta intorno. Ma è solo un momento di metodo, ok? Poi vedremo come si va a ricostruire tutto il resto. E di dimostrare, secondo punto, che la discontinuità non è soltanto uno di quei grandi accidenti che creano le faglie nella geologia della storia, ma già anche nel semplice fatto dell'enunciato. Lo si fa sorgere, e su qua Antonio Caronia la settimana scorsa aveva già messo l'accento in una maniera molto forte, lo si fa sorgere nella sua evoluzione storica e ci si preoccupa di far risaltare solo l'incisione che esso produce e la sua irriducibile emergenza. Cioè l'enunciato, qua stiamo ripassando quello detto la volta scorsa, come singolarità d'evento, l'enunciato come emergenza, come qualcosa che a un certo punto sale su e spinge. Ok? È per essere certi, scusatemi, di non riferirla degli operatori di sintesi, che debbono essere soltanto psicologici, l'intenzione dell'autore, la forma della sua mente, il rigore del suo pensiero, i temi che lo assillano, il progetto che percorre tutta la sua esistenza e le dà significato, anche qui, quando siamo in ambito archeologico, rimuoviamo l'intenzione, la forma della mente dell'autore, il rigore del pensiero, i temi, non stiamo parlando di questo livello di analisi, e per poter cogliere altre forme di regolarità, altri tipi di rapporti. Quali sono questi tipi di rapporto? Introdotti all'inizio di pagina 40. Stiamo parlando di relazioni tra gli enunciati. Quindi, in questo momento, sempre di metodo, avevamo gli enunciati singoli, stiamo lavorando in un ambito di non continuità, abbiamo rimosso l'autore, allora dobbiamo andare nella direzione di trovare relazioni, appunto, fra gli enunciati. Prendiamo due enunciati X e Y nell'ambito dell'arte contemporanea, dovremo trovare i ponti, le linee di forza, i vettori, le curve che li uniscono, anche se sfuggono anche alla coscienza dell'autore, anche nel caso di enunciati che non hanno lo stesso autore, anche se gli autori non si conoscono tra di loro. Ok? Primo punto. Secondo, relazioni tra gruppi di enunciati così stabiliti. Quindi prima abbiamo tirato una linea tra due enunciati, adesso stiamo ponendo, raggruppando parzialmente, temporaneamente gli enunciati tra di loro secondo determinati criteri e stiamo cercando di associare questi gruppi, anche se questi gruppi non riguardano gli stessi campi né campi vicini, anche se non hanno lo stesso livello formale, anche se non sono luogo di scambi determinabili. Un gruppo di enunciazione che appartiene a una formazione discorsiva e all'interno poniamo della stessa formazione discorsiva o un'altra formazione discorsiva un altro gruppo di enunciazione. Nell'ambito della formazione poniamo qual è il link che connette una domanda di iscrizione di uno studente a una dispensa prodotta da un docente. Ok? Dobbiamo andare a trovare che cosa unisce questi punti nell'ambito dell'arte contemporanea, che cosa unisce un cavallo appeso di Catlan al fatto che esista, per esemplificare a livello molto basso, una testata che si chiama Flash Art, ok? Oppure per cosa lega meglio un gruppo di enunciati per, come una mostra di Catlan al Guggenheim a una rivista. Cioè dobbiamo iniziare a lavorare su questo. Relazioni tra enunciati o gruppi di enunciati e di avvenimenti di un ordine completamente diverso, tecnico, economico, sociale e politico. Le parole qua non sono scelte a caso, tecnico, economico, sociale, politico. Cioè in questo nostro lavoro archeologico non dobbiamo assolutamente limitarci, per esempio, se stiamo parlando di arte, a quello che troviamo in un qualsiasi catalogo d'arte. Assolutamente. Noi dobbiamo riuscire a bucare in profondità tutte le stratificazioni che ci sono dietro questo, ma non per andare a individuare uno spirito del tempo o per andare ad individuare in chiave marxista una struttura su cui si andrebbe a collocare un determinato tipo di sovrastruttura, ma per capire quali sono tutte le connessioni e le relazioni che legano insieme tutte queste cose e che portano a quello che dopo chiamerà formazione discorsiva. Possiamo parlare di arte, possiamo parlare di medicina, possiamo parlare di scuola, ok? È chiaro questo passaggio. Poi, altro appunto di metodo, pagina 41. Quindi, per ora abbiamo visto l'enunciato come momento imprescindibile, enunciato che si trova collegato radicalmente al concetto di discontinuità, nel senso che per analizzare, per individuare, per vedere, per pensare l'enunciato, non dobbiamo toglierlo dalle catene precostituite intorno all'enunciato. discontinuità, nel senso che, come si diceva all'inizio, non vogliamo ricostruire queste catene in altro senso. Okay. Ultimo punto che abbiamo visto, necessità di comprendere le modalità di relazione che si instaurano, e poi il campo, di nuovo, di cui stavamo parlando all'inizio. Di che cosa vuole parlare Foucault? Come prima approssimazione bisogna accettare una delimitazione provvisoria, una zona iniziale che in caso di necessità l'analisi potrà sconvolgere e riorganizzare. Come circoscrivere questa regione? Da un lato, empiricamente, bisogna scegliere un campo in cui le relazioni promettano di essere numerose, dense e relativamente facili da descrivere. In quale altra regione gli eventi discorsivi sembrano meglio legati gli uni agli altri e per mezzo di relazioni meglio decifrabili che in quella che si designa generalmente con il nome di scienza? Ok, generalmente, ripeto. Quindi, dobbiamo insomma andare a mettere le mani in qualcosa. Scegliamo la scienza perché la scienza sembra mostrare un sistema di enunciazione che noi possiamo andare a maneggiare in una maniera un po' più solida, che ci appare in un certo senso un po' più chiaro. Però, ma d'altro canto, come garantirsi le maggiori possibilità di cogliere in un enunciato non il momento della sua struttura formale o delle sue leggi di costruzione, ma quello della sua esistenza, delle regole di comparsa, se non rivolgendosi a gruppi di discorsi poco formalizzati nei quali non sembra che gli enunciati si generino necessariamente in base a regole di pura sintassi? Cioè, come sfuggire al rischio che questo mondo degli enunciati ci appaia così bello, cristallino, formato, tutto in relazione, precisa, eccetera, eccetera? Come far sì che noi non mettiamo in dialogo un'aula in cui si insegna matematica con un testo di matematica? Un discorso un po' arido, magari, che si esaurirebbe in fretta. Allora aggiungiamo un aggettivo a questo scienze e parliamo di nuovo di scienze umane. Per rendere efficace, effettivo il tipo di lavoro che stiamo andando a fare, mettiamo le mani in pasta nel mondo delle scienze dell'uomo. Di nuovo, è il Foucault della seconda metà degli anni 60 che vuole andare in questa direzione. E quindi il territorio che l'archeologia va a sondare è il territorio proprio delle scienze umane. Per ora quindi abbiamo dato una serie di appunti di metodo. Adesso andiamo a vedere una serie di ipotesi sugli enunciati, più o meno da pagina 42 a pagina 50, che Foucault vuole andare a smantellare, nel senso che non gli sembrano assolutamente efficaci per quel che riguarda l'analisi di un sistema di enunciazione, o meglio, l'analisi di un insieme di enunciati. Quali tipo di enunciati, quali ipotesi sugli enunciati meglio Foucault vorrebbe andare a rifiutare? Li elenco: enunciati legati a un oggetto, l'aggregazione attorno a un oggetto, poi nel testo spiega perché, non viene ritenuto un criterio di relazione di sintesi efficace. Enunciati legati a uno spazio. L'oggetto si situa nello spazio. Se noi guardassimo i regimi di enunciazione all'interno di uno spazio, di nuovo non andremmo a trovare quello che ci serve. Terzo punto, ipotesi sugli enunciati che siano all'interno di concatenazioni prestabilite. Anche questo è un punto di metodo che non ci interessa. Qua, siccome non è una parte particolarmente efficace, cerco di andare abbastanza veloce. Il sistema di concetti permanenti legati agli enunciati, cioè i concetti che farebbero sì che determinati enunciati siano apparsi o altri, e la persistenza dei temi, cioè come se ci fossero degli sfondi originali tematici su cui gli enunciati si vanno a porre. Quindi, rescissione, di nuovo, dei legami fra oggetti, spazi, concatenazioni predefinite, concetti, e temi. Che cosa ci rimane una volta fatto questo lavoro? Ci rimane di nuovo la dispersione. E qua vado a leggere la pagina 52 perché andiamo ad individuare un punto fondamentale. Una volta che ho tolto la relazione fra gli enunciati e tutta questa enumerazione detta prima, oggetti, spazi, temi, concatenazioni, concetti, che cosa mi rimane da descrivere? Da ciò l'idea di descrivere proprio queste dispersioni, di cercare se tra quegli elementi che con certezza non si organizzano come un edificio progressivamente deduttivo, né come uno smisurato libro che si venga scrivendo a poco nel tempo, né come l'opera di un soggetto collettivo, non si possa individuare una regolarità, un ordine nella loro successiva comparsa, delle correlazioni nella loro simultaneità, delle posizioni che si possano collocare in uno spazio comune, un funzionamento reciproco, delle trasformazioni collegate e gerarchizzate. Una simile analisi non dovrebbe tentare di individuare delle isole di coerenza per descriverne la struttura interna. Non dovrebbe assumere il compito di supporre e di portare in piena luce i conflitti latenti, ma dovrebbe studiare delle forme di ripartizione. Quindi l'archeologia non va a studiare ciò che ci dà dei meccanismi di identità. Le relazioni che andiamo a porre non sono delle continuità che ci permettono di organizzare delle identità. Invece di costruire delle catene di inferenza, come spesso fa nella storia delle scienze o della filosofia, invece di stabilire delle tavole di differenze, come fanno i linguisti, dovrebbe descrivere dei sistemi di dispersione. E questa è la parola chiave che ci accompagna da qui in poi: la dispersione. La dispersione, adesso andiamo a vedere meglio cos'è. Comunque non è una catena di inferenza, non è una tavola di differenza, non è una tassonomia con cui noi diciamo X è diverso da Y, non è nemmeno una legge con cui noi diciamo X deriva da Y, ok? Ma è un sistema in cui noi cerchiamo di vedere X e Y come. Lo precisa dopo introducendo una delle parole chiave di questo testo, secondo paragrafo di pagina 52. Nel caso in cui tra un certo numero di enunciati si possa descrivere un simile sistema di dispersione, quindi prima condizione, se noi siamo in grado di descrivere questo sistema, nel caso in cui tra, e qua è molto preciso, gli oggetti, i tipi di enunciazione, i concetti, le scelte tematiche si possa definire una regolarità, un ordine, delle correlazioni, delle posizioni e dei funzionamenti, delle trasformazioni. Ripeto, primo punto, se noi possiamo descrivere un sistema di dispersione. Secondo punto, se possiamo definire una regolarità, un principio d'ordine X, generico, tra oggetti, tipi di enunciazione, concetti, scelte tematiche, si dirà convenzionalmente che ci si trova di fronte a una formazione discorsiva, evitando in tal modo parole troppo gravide di condizioni e di conseguenze, inadeguate d'altronde a designare una simile dispersione come scienza o ideologia o teoria o campo di obiettività. Una formazione discorsiva, che è una delle parole chiave introdotte in questo libro, non è quindi una scienza, non è una ideologia, non è una teoria, non è un campo di obiettività, cioè un campo di verifica di determinate leggi, ok? è qualcosa che noi possiamo descrivere nei termini di dispersione degli enunciati, è qualcosa che noi possiamo delineare come una sorta di ordine fra elementi eterogenei come oggetti, enunciati, concetti, temi, in una maniera regolare. Si chiameranno regole di formazione le condizioni a cui sono sottoposti gli elementi di questa ripartizione. Qua Foucault sta accennando un livello archeologico ulteriore e ancora più radicale. Perché? Perché ci sta dicendo in questo punto che le formazioni discorsive obbediscono delle regole e quindi noi, in effetti, delle regole che ci danno questi principi di ordine li possiamo trovare. Si chiameranno, ripeto, regole di formazione le condizioni a cui sono sottoposti gli elementi di questa ripartizione: oggetti, modalità di enunciazione, concetti, scelte tematiche. Le regole di formazione sono delle condizioni di esistenza, ma anche di coesistenza, di mantenimento, di modificazione, di scomparsa, in una data ripartizione discorsiva. Cioè, le regole di formazione, qua sempre stiamo andando ancora un passo oltre, sono quelle che ci dicono le condizioni di esistenza che Foucault articola in, attenzione, coesistenza, cioè il fatto che noi troviamo due enunciati all'interno della stessa formazione discorsiva, di mantenimento, come possono sopravvivere tutta una serie di enunciati. Modificazione, le regole ci danno la maniera in cui gli enunciati cambiano. E scomparsa, le regole di formazione ci danno la maniera in cui gli enunciati muoiono. Ok? In una data ripartizione discorsiva. Quindi, le regole ci parlano delle condizioni. Quali sono queste regole di formazione? Tutti i paragrafi successivi sono dedicati proprio all'analisi di questi temi. Nel capitolo terzo, Foucault introduce, a pagina 55, le regole di formazione degli oggetti. Quali sono le regole di formazione degli oggetti? Come potete vedere, il metodo di spiegazione presente all'interno di questo libro non restituisce mai tutto il discorso nella sua completezza, ma pian pianino stiamo andando ad aggiungere un passaggio dopo l'altro, che non è un livello di crescita, è un livello di complessificazione rispetto a un nucleo iniziale che abbiamo definito un po' di tempo fa. Cioè, stiamo andando sempre intorno a un centro, andando a recuperare tutta una serie di elementi nuovi, se possiamo dire sempre di metodo. Allora, quali sono le regole di formazione degli oggetti? Punto primo. Tre punti. Anzitutto, di nuovo, tre punti di metodo. Qua il metodo del libro a volte si sovrappone al metodo archeologico. Qua è come se Foucault stia descrivendo come sia stata la genesi di questo libro e allo stesso tempo, spiegando la genesi, ci dà degli strumenti. Anzitutto bisognerebbe rintracciare le prime superfici della loro emergenza, mostrare, quindi primo punto di metodo sulla formazione degli oggetti, dove possono sorgere, per poterle poi designare e analizzare, quelle differenze individuali che, a seconda dei gradi di razionalizzazione dei codici concettuali dei tipi di teoria, riceveranno lo statuto di malattia, di alienazione, di anomalia, di demenza, di nevrosi o di psicosi, di degenerazione. Questo testo declina quando utilizza degli esempi sull'ambito della follia, che è stato l'ambito di ricerca dei 10 anni precedenti di Foucault. Quindi, quando troviamo degli elementi, dei contenuti concreti, li troviamo spesso in questo ambito. E qua che cosa ci sta dicendo sull'emergere degli oggetti? Quindi, ripeto, mostrare dove possono sorgere quelle differenze individuali che riceveranno lo statuto di malattia, di alienazione, di anomalia, di nemenza, di nevrosi, di psicosi, di degenerazione. Ovvero, quando è che a un certo punto è apparso un qualcosa che noi abbiamo chiamato malattia? Quando è apparso alienazione? Quando demenza? Quello che sta dicendo Foucault è che nel nostro metodo archeologico vediamo quando è emerso il problema e andiamo prima di tutto a lavorare lì, sulle prime superfici della loro emergenza, cioè è quasi visiva la metafora, cioè quando è emerso dall'acqua una cosa che abbiamo chiamato malattia, andiamo a vederlo. Prego. Non ho capito bene la differenza tra la parola e l'oggetto. Sì. Allora, questo di oggetto è un termine che rimanda sempre a una triangolazione che è ineliminabile. Era un appunto della prima lezione che andremo a specificare sempre di più, tra l'altro, perché diventerà sempre più importante quando andiamo a parlare dei processi di soggettivazione. Allora, in questo triangolo, in questo momento, noi abbiamo tre poli, ognuno dei quali non può prescindere dall'altro. Uno è il soggetto, uno è l'oggetto, l'altro è il discorso. Come funzionano questi tre poli in questo momento della produzione foucaultiana? Se ci mettiamo dal punto di vista del soggetto, ok? Penso che si sia inteso ormai che per Foucault il soggetto non sia mai niente di sostanziale, ma che abbia sempre una dimensione processuale. Ok? Questa dimensione processuale deriva dal fatto che il soggetto non vive in un empireo, in un fondo sfumato in cui tutto è bianco, tutto è trasparente. Ok? Ma il soggetto si struttura e cresce proprio perché di fronte a sé si evolve, cresce è una parola tremenda, si evolve, si soggettivizza perché incontra di fronte a sé degli oggetti, ok? E qua Foucault, con una libertà piuttosto varia rispetto alla concezione di oggetto che noi abbiamo come qualcosa di tangibile, ci classifica questo come oggetti. L'oggetto, se vuoi, andiamo a riprendere un tipo di definizione che qua funziona, è ciò che si pone di fronte al soggetto, ok? Per cui noi ci troviamo di fronte delle determinati oggetti che chiaramente rimandano a determinate parole. Noi ci costruiamo sugli oggetti che incontriamo. Però quello che sta dicendo Foucault qui è che gli oggetti non vivono di vita propria, ma gli oggetti che noi incontriamo, attenzione, qua è sempre il libro, è l'archeologia del sapere, ok? Tra l'altro, il titolo francese, scusate, mi apro un breve inciso, è l'archeologie du savoir. Savoir non è connaissance, quindi noi sbaglieremmo se quando incontriamo la parola sapere qui la traducessimo nei termini di conoscenza. Quando Foucault approfondirà sempre di più questi temi, diversificherà in maniera sempre più radicale conoscenza e sapere, connaissance e savoir, e nelle traduzioni inglesi che troviamo connaissance sarà knowledge, ma savoir spesso verrà tradotto come wisdom. Cioè il savoir è qualcosa che riguarda in maniera molto stretta la nostra esistenza, non è un procedere razionale ed astratto del pensiero, ok? Quindi siamo in quest'ambito, noi incontriamo degli oggetti di sapere, ok? Quello che sta cercando di portare alla luce qui Foucault è che questi oggetti di sapere anche loro non vivono in un mondo particolare o in un mondo di continuità, ma noi li dobbiamo analizzare in una determinata maniera, ok? Scusami, qua passo da oggetto enunciato in una maniera molto libera, però perché ci interessa conoscere gli enunciati, gli oggetti, tutto questo? Perché noi ci costruiamo su di questi, fondamentalmente, perché il nostro processo di soggettivazione, quello che vavamo, che siamo e che saremo, si costruisce sull'altro da noi. E quindi dobbiamo comprenderlo. Come comprendere meglio? Cioè, come comprendere il nostro processo di soggettivazione? Lo comprendiamo se comprendiamo che come funziona l'altro da noi. Come funzionano le cose che noi ci troviamo incontro nella nostra vita. Una volta che abbiamo compreso queste cose, sia che le chiamiamo episteme, sia che li chiamiamo discorso, sia che li chiamiamo dispositivo, cioè tutto quello che c'è dietro l'oggetto, l'enunciato e così via, allora capiremo meglio, andremo a comprendere anche tutti i nostri processi di soggettivazione. Parzialmente penso di aver risposto, però questo è uno dei temi in effetti più importanti in assoluto. Poi vedremo, c'è una risposta in questo libro su come funziona questo meccanismo. Poi, secondo punto, oltre che vedere le superfici di emergenza, bisognerebbe descrivere le istanze di delimitazione. Cosa sono queste istanze di delimitazione? Nel XIX secolo la medicina è divenuta la maggiore istanza che nella società determini, designi, nomini, instauri la pazzia come oggetto, ma non è stata l'unica a svolgere questo compito. Attenzione, la giustizia, e particolarmente la giustizia penale, l'autorità religiosa, la critica letteraria e artistica. Quindi, le istanze di delimitazione sono quelle che ci individuano degli oggetti, ok, ascrivendoli al proprio sistema, per cui noi possiamo andare a trovare degli oggetti in sistemi differenti. Appunto, la pazzia che noi ritroviamo in ambito medico, ma che poi ritroviamo anche in ambito giuridico, che ritroviamo in ambito letterario, che ritroviamo in ambito religioso, ok? Come hanno delimitato la pazzia queste formazioni? Punto C. Infine bisognerebbe analizzare le griglie di specificazione. Si tratta dei sistemi, ripeto, le griglie di specificazioni, secondo i quali si separano, si contrappongono, si imparentano, si raggruppano, si classificano, si fanno derivare le une dalle altre le varie pazzie come oggetti del discorso psichiatrico. Quindi, quando ci approcciamo agli oggetti, dobbiamo vedere anche come siamo andati a specificarli, come li abbiamo divisi, apparentati, messi in una griglia. Ok? Terzo punto riguardo agli oggetti. Però qui Foucault aggiunge una cosa fondamentale quando parla di oggetti. Una descrizione di questo genere, siamo a pagina 58, è ancora di per sé stessa insufficiente. Di nuovo, stiamo andando oltre, e ciò per due motivi. I piani di emergenza appena ritranciati, quelle stanze di delimitazione, quelle forme di specificazione, non forniscono degli oggetti completamente costituiti e strutturati che il discorso della psicopatologia debba poi inventariare, classificare, nominare e scegliere, e infine ricoprire con un reticolato di nomi e di frasi. Non sono le famiglie a determinare i pazzi, a proporre dei malati all'analisi o alla decisione degli psichiatri. Cioè, le tre cose che abbiamo detto prima sono ancora parziali. Il discorso è una cosa ben diversa dal luogo in cui si vengono a deporre e sovrapporre, come in una semplice superficie di iscrizione, degli oggetti precedentemente instaurati. Cioè, abbiamo quelle cose, ma dobbiamo andare oltre. Come possiamo andare oltre? Pagina 60. Nel XIX secolo il discorso psichiatrico si caratterizza non tanto in base a degli oggetti privilegiati, ma in base al modo con cui forma i suoi oggetti, che del resto sono molto dispersi. Qui in questo breve passaggio abbiamo il punto fondamentale, uno dei punti fondamentali del libro. il discorso psichiatrico, che ci fa capire cos'è il discorso, si caratterizza non tanto in base agli oggetti privilegiati, cioè il discorso non è la teoria, di nuovo, non è l'ideologia, non è questo bel sistema di connessioni razionali che noi andiamo a costruire, ma è il modo, attenzione, in cui forma i suoi oggetti, che del resto, cioè che nella realtà sono molto dispersi. Il discorso è il modo in cui forma gli oggetti. Quindi stiamo parlando di un livello ulteriore, differente e più profondo. Questa formazione viene assicurata da un insieme di relazioni stabilite tra delle istanze di emergenza, di delimitazione e di specificazione. Quindi, emergenza, delimitazione e specificazione, noi li dobbiamo mettere su un piano, ma poi dobbiamo andare a relazionarle per capirne i modi per cui, per cui vengono alla luce. Questo è il livello del discorso. E quindi arriviamo a una definizione, di nuovo, la terza che troviamo di formazione discorsiva. Si dirà dunque formazione discorsiva, no, si dirà dunque che una formazione discorsiva si definisce, perlomeno rispetto ai suoi oggetti, se si può stabilire questo insieme, se si può mostrare che in un modo, se si può mostrare in che modo un qualunque oggetto del discorso in questione trovi che esso può dare vita simultaneamente o successivamente a oggetti che si escludono senza per questo debba essere a sua volta modificarsi. Ecco quindi, la formazione discorsiva può mostrare come vengono alla luce gli oggetti che si escludono senza per questo a loro volta modificarsi. Come funziona questa cosa? Qua abbiamo tre punti adesso. Le condizioni perché compaia un oggetto di discorso, e qua siamo di nuovo in un punto definitorio sull'oggetto abbastanza preciso, un ciò di cui possiamo parlare, le condizioni storiche perché se ne possa dire qualcosa, e perché più persone possano dirne cose differenti, per le condizioni perché esso si iscriva in un ambito di parentela con altri oggetti, perché possa stabilire con essi dei rapporti di somiglianza, di vicinanza, di lontananza, differenze, di trasformazione, sono, come si vede, numerose e pesanti. Il che significa che non si può in qualunque epoca parlare di qualunque cosa, non è facile dire qualcosa di nuovo, non basta aprire gli occhi. Ok? Quindi le condizioni perché quello che noi andiamo a prendere come conseguenza è il fatto che è difficile comprendere perché un oggetto di discorso possa venire alla luce. Quello che noi dobbiamo andare a toccare sono le condizioni e le relazioni che si pongono fra queste condizioni. Nel punto secondo Foucault è più preciso. Queste relazioni si stabiliscono tra istituzioni, e qua stiamo aprendo un mondo che finora sul sapere non abbiamo ancora trattato, istituzioni, processi economici e sociali, forme di comportamento, sistemi di norme, tecniche, tipi di classificazioni, modi di caratterizzazione, e non sono presenti nell'oggetto. Quindi l'oggetto di per sé di cui parliamo non ci mostra questo sfondo, che invece è uno sfondo, chiamarlo sfondo è veramente brutto, però sono le condizioni che permettono che l'oggetto di discorso ci sia. Noi dobbiamo andare a parlare su queste condizioni, e queste condizioni sono poste al livello delle relazioni, ripeto, tra istituzioni, processi economici e sociali, forme di comportamento, sistemi di norme, tecniche e così via. Nell'ultimo parte che Antonio Caroni andrà ad approfondire, perché è fondamentale sviluppare, entrerà sempre di più la parola pratiche. Per noi però è già adesso un orizzonte fondamentale, cioè senza le pratiche noi non possiamo pensare il discorso, il sapere nel termine in cui lo stiamo ponendo ora. Anzitutto, queste relazioni si distinguono da quelle che si potrebbero chiamare primarie e che, indipendentemente da ogni discorso, da ogni oggetto di discorso, si possono descrivere tra istituzioni, tecniche, forme sociali, eccetera. Quindi si dà un primo livello di relazione tra i discorsi, si dà un primo livello di relazioni tra il nucleo che abbiamo portato alla luce prima, istituzioni, tecniche, forme sociali, che non è quello che ci interessa, cioè non ci interessa il discorso chiuso dell'economia, il discorso chiuso della scuola, il discorso chiuso della sociologia e così via. Non ci interessa lavorare questi piani, ci interessa vedere tutte le linee che possiamo andare a tirare tra questi piani. E poi, come si vede? Le relazioni discorsive, un accostamento soggetto aggettivo che qua non ha mai fatto, ma che è assolutamente pertinente. Come si vede, le relazioni discorsive non sono interne al discorso. Non collegano tra di loro i concetti e le parole. Non stabiliscono tra le frasi o le proposizioni un'architettura deduttiva o retorica. Ma non sono tuttavia delle relazioni esterne al discorso, che lo limitino o gli impongano certe forme o lo costringano in certe circostanze a denunciare determinate cose. Quindi, attenzione, non stiamo parlando di un ambito di lingua, di nuovo, o meglio, di linguistica, ok? Non stiamo mettendo in connessione delle parole che diciamo, che scriviamo, ma allo stesso tempo non stiamo andando a cercare nessun tipo di ipotesi di struttura marxista che soggiaccia a queste relazioni discorsive. In un certo senso si trovano al limite del discorso. E qua Foucault insiste sempre su un tema che avevamo ritrovato anche nelle parole e le cose, con il concetto di episteme, che non è sopra il livello di teorie e non è sotto il livello delle pratiche quotidiane, è quell'intermedio per cui noi strutturiamo determinate pratiche, ma non sono queste pratiche. Così via, le relazioni discorsive non galleggiano sulle parole, ma non stanno nemmeno sotto in processi economici tecnici. È nel mezzo, nel limite, che noi dobbiamo andare a lavorare. È al bordo del discorso che noi dobbiamo trovare, lavorare archeologicamente. In un certo senso si trovano al limite del discorso, gli offrono gli oggetti di cui può parlare. La domanda fondamentale che avevamo posto all'inizio, gli danno gli oggetti di cui può parlare, cioè noi, io in questo momento, voi, dopo, chiunque, chi ha scritto questo libro ha espresso delle parole, ha detto delle cose, ha creato degli oggetti di discorso. Le condizioni di questi discorsi non sono nelle parole che sto dicendo, ma sono al limite, sul bordo delle parole che sto dicendo. Dov'è questo limite delle parole che sto dicendo? È il nostro campo di indagine. Il cavallo appeso di Cattelan è un oggetto del discorso che non emerge come il barone di Munchausen secondo sua proprietà, ma è al limite del cavallo appeso di Cattelan che noi troviamo le condizioni d'esistenza di quel cavallo. È al limite di tutte le parole, è al bordo di tutte le parole che sto dicendo in questo momento che noi troviamo le condizioni di possibilità delle parole che sto dicendo in questo momento. O piuttosto determinano, e anche qua è una cosa che introduciamo per la prima volta stasera, ma è fondamentale. Determinano il soggetto, ripeto, è le relazioni discorsive, il fascio di rapporti che il discorso deve effettuare per poter parlare di questi e di quegli oggetti, per poterli trattare, nominare, analizzare, classificare, spiegare. Vi ricordate, scusa, che ore sono, Fabio, per cortesia? 7:30. Sono già le 7:30? Allora, sì, panico, ok, cercherò di andare un po' più in fretta, almeno di arrivare alla questione del soggetto e del cogito. Allora, trattare, nominare, analizzare, classificare. Partiamo sempre dal presupposto di metodo, no, dal presupposto iniziale, da quel ribaltamento che avevamo detto. Gli enunciati sono rari, non sono fitti. Gli enunciati sono una selezione tra tutto quello che si può dire. Ok? Noi troviamo qui le relazioni discorsive, sono sul bordo di queste cose che sono state dette e sono quello che ci permette di passare alla domanda perché sono state dette, perché appaiono certe cose piuttosto che altre. Qua l'analisi continua, vado con un salto abbastanza rapido a pagina 66. Trama oscura delle cose, ogni tanto Foucault ha questi slanci lirici. Catena manifesta, visibile e colorata delle parole. Vorrei mostrare che il discorso non è una sottile superficie di contatto o di scontro tra una realtà e una lingua, il groviglio di un lessico e di un'esperienza. Vorrei mostrare con esempi precisi che analizzando i discorsi stessi si vede allentarsi la stretta apparentemente tanto forte delle parole e delle cose e farsi luce un insieme di regole proprie della pratica discorsiva. Queste regole non definiscono affatto la muta esistenza di una realtà nell'uso canonico di un vocabolario, ok, ma il regime degli oggetti. Le parole e le cose, qua ritorna al suo libro precedente, è il titolo di un problema, è il titolo del lavoro che ne modifica la forma, ne sposta i dati e alla fin fine rivela un compito completamente diverso. Qual è questo compito? Un compito che consiste nel non trattare i discorsi come degli insiemi di segni, di elementi significanti che rimandino a contenuti o a rappresentazioni, ma come delle pratiche che formano sistematicamente gli oggetti di cui parlano. E questo libro ha... Vabbè, si aprirebbe una parentesi che non posso chiudere, quindi andiamo avanti. Indubbiamente i discorsi sono fatti di segni. Per forza, quando parliamo, quando scriviamo, noi usiamo dei segni. Ma fanno molto di più che utilizzare per questi segni per designare delle cose. È questo di più che li rende irriducibili alla langue e alla parole. È questo di più che bisogna mettere in risalto e bisogna descrivere. Ok? Qua, in chiusura di questo capitolo sul regime degli oggetti, abbiamo uno snodo importantissimo perché abbiamo effettivamente per la prima volta l'enunciazione in maniera chiara che quando parliamo del discorso noi stiamo parlando di un tipo di sapere che, anche se suona male in italiano, suonerebbe male anche nel vocabolario foucaultiano, però per chiarirci è un sapere pratico, o meglio è un sapere che non può prescindere dalle pratiche. A questo punto, scusate, mi salto tutto il discorso sulle modalità enunciative perché vorrei che consta di tre momenti fondamentalmente. La risposta alla domanda chi parla, che in Foucault è un tema fondamentale. Chi parla in questo momento? Io, ma... quest'io che sta parlando, questo individuo che sta parlando in questo momento, non è un chi parla, se vogliamo, riferito a una mia personalità, a una mia storia, eccetera, eccetera, ma è un chi parla, penso che qua stiamo arrivando vicino a questi punti, determinato da una serie di situazioni che non mi spersonalizzano del tutto, ok? Ma dal punto di vista... dall'analisi archeologica rendono pressoché indifferente quale sia il nome associato, il nome che designa l'individuo che sta parlando in questo momento. In questo senso il cavallo di Catalan appeso ci interessa in quanto cavallo piuttosto che in quanto cavallo di Catalan, oppure ci interessa in quanto di Catalan se questo aggiungere Catalan ci apre tutto un mondo di pratiche che hanno portato alla nascita di quell'oggetto particolare. La questione della posizione, qua stiamo sempre girando intorno al soggetto, al sapere, può assumere tante figure differenti. Io posso essere in un luogo e parlo in quanto quel luogo mi legittima a parlare in una determinata maniera, per esempio qua, due ore fa ero in un altro luogo a parlare con un altro cappello, con un'altra maschera, ok, in un'altra maniera. Nella casa, nella scuola, in ospedale, eccetera, eccetera, io occupo spazi differenti che mi soggettivizzano in una maniera differente. La questione poi della situazione, anche. Possono verificarsi situazioni in cui io assommo più cappelli differenti, situazioni che mi obbligano a scindere, a dividere questi cappelli. È chiaro questo? Questo per arrivare a dire cosa? Nell'analisi proposta, le diverse modalità di enunciazione, fine pagina 73, che sono quelle che ho appena ricapitolato, invece di rimandare alla sintesi o alla funzione unificatrice di un soggetto, ne manifestano la dispersione. Ripeto, le diverse modalità di enunciazione non ci fanno sintetizzare un soggetto, ma ci danno la dispersione radicale di questo soggetto. Per cui, quando io archeologicamente vado a indagare gli ambiti di sapere, inevitabilmente sto compiendo un'opera di frammentazione del soggetto. È chiaro questo passaggio, spero, perché è uno dei punti fondamentali. Nei diversi statuti, nelle diverse posizioni che può occupare o ricevere quando tiene un discorso, nella discontinuità dei piani da cui parla, e se questi piani sono collegati da un sistema di rapporto, di rapporti, quest'ultimo non viene determinato dall'attività sintetica di una coscienza identica a sé, muta e anteriore ad ogni parola, ma dalla specificità di una pratica discorsiva. Ripeto, se questi piani sono collegati da un insieme di rapporti, non sono io, Amos Bianchi, che sto parlando in questo momento, il fattore unificante di questi piani differenti, ma è la pratica discorsiva che sto esercitando in questo momento. È una questione radicalmente diversa. Cioè, non sono io il soggetto parlante. È tutto un sistema che parla in questo momento attraverso di me, che è unifico tutto un sistema di fasci, tutto un sistema di piani che mi stanno attraversando in questo momento. Sempre per continuare sull'ambito del soggetto, e qua cerco di andare, faccio un salto abbastanza forte, per individuare un altro punto che è piuttosto importante. Vado verso la fine del discorso sugli enunciati, cioè stiamo andando a pagina 161 in questo momento. E Foucault qui sta parlando della rarità degli enunciati. Mettiamo un attimo tra parentesi il discorso del soggetto che riprendiamo fra pochissimo. Qua Foucault introduce in un paragrafo, apre tutta una prospettiva nuova di lavoro, che sarà quella successiva a questo libro. L'analisi delle formazioni discorsive si rivolge proprio a questa rarità di cui abbiamo parlato prima. Prende per oggetto l'esplicito, cerca di determinarne il sistema particolare e così facendo spiega perché ci sia potuta essere un'interpretazione. Ma analizzare una formazione discorsiva significa cercare la legge di questa povertà, significa misurarla e determinare la forma specifica. Qua sta riassumendo tutte cose dette 100 pagine prima, penso che siano abbastanza chiare. In un certo senso significa dunque pesare il valore degli enunciati. Questo valore, attenzione, non viene definito dalla loro verità. E qua Foucault, appunto, a noi adesso probabilmente inizia a sembrare banale tutto questo, ma qua Foucault sta sradicando tutta una questione epistemologica profondissima e fondamentale che deriva da approcci filosofici molto importanti, cioè sta tagliando fuori tutto un mondo della filosofia dicendo non mi interessa nulla della verità degli enunciati. Non si misura in base alla presenza di un contenuto segreto, eliminiamo di nuovo tutto il mondo di questo sommerso che starebbe sotto gli enunciati, un sommerso psicologico, un sommerso pulsionale, un sommerso di desiderio. Ma, e qua appunto è l'apertura, caratterizza la loro posizione, la loro capacità di circolazione e di scambio, la loro possibilità di trasformazione, non soltanto nell'economia del discorso, ma in generale nell'amministrazione delle risorse rare. E come funziona l'amministrazione delle risorse rare? Esso appare come un bene, gli enunciati, proprio come se avessimo a disposizione l'acqua o l'aria, quello che diciamo è come un bene finito, limitato, desiderabile, utile, che ha le sue regole di apparizione, ma anche le sue condizioni di appropriazione e di messa in opera. Un bene che conseguentemente, dal momento che ha un'esistenza, pone il problema del potere. Un bene che costituisce per natura l'oggetto di una lotta e di una lotta politica. Già qui, nell'archeologia del sapere, accennatissimo, brevissimo, troviamo quella che veramente nei 18 anni successivi sarà la linea di sviluppo radicale e forte. Ovvero, i discorsi sono dei beni rari. Ok? Qua con una bellissima analogia Foucault sta dicendo: chi dispone di questi beni rari? Chi è che veramente ce li ha in mano? Chi è questo soggetto che ha potuto disporre di questo bene nel momento in cui ne ha parlato? Pensiamo a Yes We Can, così, prima roba che mi è venuta in mente adesso. E lui risponde: un bene che dal momento che ha un'esistenza pone il problema del potere. E quindi, per capire perché questo bene, come venga amministrato questo bene, dobbiamo iniziare anche a ragionare in questa direzione. Un bene che costituisce per natura l'oggetto di una lotta e di una lotta politica. Per disporre del bene, di quella risorsa che sono gli enunciati, noi dobbiamo porci sul piano politico. Dobbiamo essere individui che lottano politicamente. Qua poi, nei 18 anni dopo, Foucault continuerà a lavorare su questo. Sulla soggettività, qua con una formula tranchant, e qua ormai abbiamo chiuso completamente un discorso. L'analisi degli enunciati si effettua senza riferimento ad un cogito. Questa frase è chiarissima, basta. Tutto il capitolo della filosofia, iniziato nel 1630 e rotti, quando Cartesio ha posto il cogito ergo sum, ha posto il pensiero, l'essere, sullo stesso piano di esistenza, si rompe definitivamente. Cioè, Foucault sta dicendo in maniera molto radicale, e quando gli danno del nazista, pur nelle sue... con tutte le pinze, l'operazione veniva intesa nella sua radicalità, veniva fuorviata completamente, ma veniva intesa nella sua radicalità. Foucault sta dicendo: non abbiamo bisogno di un cogito, non ci serve a niente quando stiamo facendo questo tipo di lavoro sul soggetto. L'analisi degli enunciati si colloca al livello del si dice, quindi non importa nulla che in questo momento ci sia un individuo, un essere vivente che si chiama Amos Bianchi. Se noi ci dovessimo fare l'analisi degli enunciati di Amos Bianchi in questo momento, non ci serve questo aspetto quando facciamo l'analisi enunciativa. Terzo punto, essa si rivolge a delle forme specifiche di cumulo che non si possono identificare né con un'interiorizzazione della forma del ricordo né con una totalizzazione indifferente dei documenti. Quindi, no riferimento al codice, al cogito, posizionamento su un piano del si dice. Terzo punto, indifferenza totale all'aspetto del ricordo e alla totalizzazione indifferente dei documenti. Il proliferare dei documenti, il creare tutta una serie di documenti e allo stesso tempo tutte le opere di memorizzazione non servono, sono inutili nel momento dell'analisi degli enunciati. La peculiarità dell'analisi enunciativa, quarto punto, e qua stiamo scivolando verso l'ultimo concetto con cui si chiude la parte che vorrei proporre oggi, che è quello di archivio, non è quella di risvegliare i testi dal loro attuale sonno per ritrovare, agendo magicamente sui caratteri ancora leggibili alla loro superficie, il bagliore della loro nascita. Non è l'ermeneutica. Si tratta invece di seguirli lungo il loro sonno, o piuttosto di rimuovere i temi imparentati al sonno, all'oblio, all'origine perduta, e cercare quale modo di esistenza possa caratterizzare gli enunciati indipendentemente dalla loro enunciazione, e anche questo è un punto fondamentale, gli enunciati indipendentemente dall'atto con cui sono nati, nello spessore del tempo in cui sussistono, in cui sono conservati, in cui vengono riattivati e utilizzati, in cui vengono anche, ma non per una destinazione originaria, dimenticati ed eventualmente distrutti. E quali sono i tre punti che ci permettono di fare questo lavoro di analisi enunciativa? La persistenza, prima parola chiave. Vedere come gli enunciati riescono a persistere. Da tanti punti di vista. Qua significa che si conservano grazie a un certo numero di supporti di tecniche materiali secondo certi tipi di istituzioni e con certe modalità statutarie. Ok? Se consideriamo questo testo un enunciato, la domanda sarebbe, dal punto di vista della persistenza, com'è arrivato fino a questa cattedra e alla lettura che ho fatto del primo paragrafo? Ok? Che non significa Gilles Deleuze ha scritto nel 1900 non so che cosa un articolo intitolato un nuovo archivista su Michel Foucault, che poi è stato impaginato da Cronopio. È qualcosa di più radicale. Che cosa ha portato qui questo libro in questo momento? Ok? Quale fenomeno di persistenza di questo enunciato ha fatto sì che riapparisse in questo momento e che non venisse dimenticato? La biblioteca, il museo sono questioni assolutamente radicali per tutta la gestione della persistenza. Poi, questa analisi presuppone ugualmente che si trattino gli enunciati nella forma di additività, che è loro specifica, seconda parola chiave, l'additività. Io prendo un enunciato e aggiungo un pezzo, lo faccio rivivere in un'altra maniera, ok? Il Yes We Can, che è diventato 3 miliardi di cose, I want you, you in the army now, giusto? È corretto? Che nasce nella prima guerra mondiale o nella seconda, non lo so neanche, ma tuttora vive, perché ci sono tutta una serie di revisioni di questo enunciato che li hanno fatto rivivere. E poi i fenomeni di ricorrenza. Perché un enunciato ricorre dove e come ricorre? Ok? Perché ricompare? Che non è il persistere. Il persistere è quel movimento sotterraneo che fa sì che continui a vivere e ogni tanto vi appaia. Il ricorrere è l'opposto. Perché un enunciato lo ritroviamo in continuazione? È visto dall'altra parte. E allora andiamo a pagina 172-173. Il campo degli enunciati, e vorrei chiudere a questo punto, ho corso un pochino sulla seconda parte, scusate, però spero che siano arrivati degli elementi. Il campo degli enunciati, così articolato in base a degli a priori storici, qui c'è una lunga definizione degli a priori storici che ho saltato perché l'abbiamo già utilizzata precedentemente, così caratterizzato da diversi tipi di positività e scandito da formulazioni discorsive distinte, non ha più quell'aspetto di pianura monotona estesa all'infinito che gli attribuivo all'inizio quando parlavo della superficie dei discorsi. Vi ricordate la parola superficie che abbiamo usato un po' di tempo fa? Non è più questo panorama piatto. cessa ugualmente di apparire come l'elemento inerte, liscio e neutro in cui vengono ad affiorare ognuno col suo movimento caratteristico, oppure spinti da qualche oscura dinamica dei temi, delle idee, dei concetti, delle conoscenze. Adesso, qua la metafora è visiva e un po' ardita, si è di fronte ad un volume complesso, però penso che questo volume inizi a essere facilmente visualizzabile, in cui si differenziano delle regioni eterogenee e in cui si dispiegano, secondo regole specifiche, delle pratiche che non si possono sovrapporre. Invece di vedere allinearsi sul grande libro mitico della storia delle parole che si traducono in caratteri visibili dei pensieri costituiti prima e altrove, si hanno nello spessore delle pratiche discorsive dei sistemi che instaurano gli enunciati come degli eventi che hanno le loro condizioni, il loro campo di apparizioni, e delle cose che comportano la loro possibilità, il loro campo di utilizzazione. Tutti questi sistemi di enunciati propongo di chiamarli archivio. E qua siamo arrivati alla parola che chiude questo. Come lo definisce alla pagina successiva, metà di pagina 173? L'archivio non è questa collezione di documenti. L'archivio è anzitutto la legge di ciò che può essere detto, il sistema che governa l'apparizione degli enunciati come avvenimenti singoli. È una cosa assolutamente specifica, l'archivio. Quindi l'archivio, come è nel senso comune nella lingua italiana, quel catalogone di cose, non è il senso foucaultiano dell'archivio. L'archivio, rispondendo a una delle domande che ci avevamo posti all'inizio, è la risposta alla domanda perché c'è una rarità di enunciati, perché l'archivio è la legge di ciò che può essere detto, il sistema che governa l'apparizione degli enunciati come avvenimenti singoli. Ma l'archivio è anche ciò che fa sì che tutte queste cose dette non si ammucchino all'infinito in una moltitudine amorfa, non si iscrivano in una linearità senza fratture e non scompaiano solo per casuali accidentalità esterne, ma che si raggruppino in figure distinte, si compongano le une con le altre secondo molteplici rapporti, si conservino o si attenuino secondo regolarità specifiche. Ciò che fa sì che non si retrocedano con lo stesso passo del tempo, ma che alcune che brillano forte come stelle vicine ci vengano in realtà ma da molto lontano, mentre altre nostre contemporanee sono già di un estremo pallore. E quindi l'archivio è la legge, ma anche un determinato tipo di sistema di ordine che governa gli enunciati. Attenzione, perché questo ordine non è però un ordine basato su una tassonomia specifica, è un ordine che determina la regolarità delle pratiche, permetta che ci siano determinate pratiche. È questo il punto fondamentale su cui d'ora in poi, a partire proprio dalla prossima lezione, Antonio Caronia andrà a lavorare. Ho tempo per leggere due ultime definizioni? 8-10. Ah, perfetto, benissimo. L'archivio, pagina 174, definisce fin dall'inizio il sistema della sua enunciabilità. L'archivio non è neppure ciò che raccoglie la polvere degli enunciati diventati inerti e permette il miracolo eventuale della loro resurrezione. È ciò che definisce il modo di attualità dell'enunciato cosa, è il sistema del suo funzionamento. Di nuovo, sta ripetendo questo perché ha introdotto una cosa fondamentale. L'archivio definisce un livello particolare, quello di una pratica che fa sorgere una molteplicità di enunciati come tanti eventi regolari, come tante cose che si offrono al trattamento e alla manipolazione. E per chiudere, l'archivio è il sistema generale della formazione e della trasformazione degli enunciati. Ok? E quindi, sono chiave queste definizioni di archivio. E qua, per chiudere l'appuntamento di oggi, dopo farò in chiusura un brevissimo riepilogo su quello che è stato detto. L'aggiornamento mai concluso, ma integralmente acquisito dell'archivio, attenzione, l'aggiornamento mai concluso, ma integralmente acquisito dell'archivio, cioè noi non riusciremo a mettere come in una fotografia un archivio una volta per tutte. Costituisce l'orizzonte generale a cui appartengono la descrizione delle formazioni discorsive, l'analisi delle positività, il reperimento del campo enunciativo. Il diritto delle parole, che non coincide con quello dei filologi, autorizza dunque a dare a tutte queste ricerche il titolo di archeologia. Questo termine non spinge alla ricerca di nessun inizio. Sarà la nona lezione. Non imparenta l'analisi con nessuno scavo o sondaggio geologico. Esso designa il tema generale di una descrizione che interroga il già detto al livello della sua esistenza, della funzione enunciativa che si esercita in lui, della formazione discorsiva a cui appartiene, del sistema generale di archivio da cui dipende. L'archeologia descrive i discorsi come delle pratiche specifiche nell'elemento dell'archivio. E quindi qua in queste 10 righe abbiamo unificato tutti i temi di oggi. Ripeto l'ultima definizione. L'archeologia descrive i discorsi come delle pratiche specifiche nell'elemento dell'archivio. Questo libro finirà la settimana prossima. Oggi che cosa ho cercato di portare alla luce? Innanzitutto due momenti di metodo che eliminano delle ipotesi, l'una sulle continuità e gli altri sugli enunciati. Poi progressivamente siamo andati a vedere in maniera sempre più complessa degli elementi che sono la descrizione degli eventi discorsivi, che cosa si intende per regolarità relazione, la delimitazione di un possibile campo di ricerca. Siamo andati quindi alla ricerca di quello che potrebbe essere una formazione discorsiva e abbiamo visto che la formazione discorsiva è qualcosa di piuttosto complesso, in cui il tema delle pratiche vi entra in gioco in maniera preponderante. Abbiamo visto che il sapere di cui parliamo, il savoir di cui parla Foucault, non è ormai più in nessuna maniera un sapere astrattamente teorico, ma è qualcosa che appartiene in senso stretto al mondo delle pratiche. Abbiamo visto che questo come conseguenze porta a una visione del soggetto che si sta aprendo sempre di più come un soggetto disperso e soprattutto come un soggetto che non si definisce mai in termini sostanziali, ma che si inquadra sempre in termini di processo, come processo di soggettivazione che incontra il discorso, che incontra le pratiche discorsive meglio e che incontra gli oggetti in continuazione. Le pratiche discorsive verranno riviste in futuro alla luce del potere e diverranno. Abbiamo visto alla fine l'archivio come elemento che riunisce, nella definizione letta prima, pratiche discorsive, soggetto, enunciati, e l'archeologia come definizione di un metodo di ricerca. Quando Foucault va a definire l'archeologia così, sta aprendo una nuova prospettiva filosofica nel vero senso della parola, perché è una prospettiva filosofica che, come abbiamo visto oggi, in maniera molto acuta e molto pungente ha rimosso tutta una serie di metodi precedenti e coevi, dalla fenomenologia al marxismo, alla psicanalisi, allo strutturalismo, all'ermeneutica, alla linguistica e così via, che abbiamo visto in queste ultime lezioni sulle parole e le cose e l'archeologia del sapere, sono stati presi in considerazione uno per uno, ma che hanno ormai abbandonato il campo. Da ora in poi vedremo che cosa vuol dire fare archeologia e poi successivamente che cosa vuol dire fare genealogia. se ci sono domande. Benissimo, grazie per la partecipazione e penso che Antonio Caronia andrà a riprendere alcuni dei temi espressi in questa parte, perché per la conclusione di questo testo costituiranno un momento assolutamente fondamentale. Grazie.